Europa 24. Quale Parlamento europeo si prepara nei prossimi 5 anni di legislatura? Buongiorno da Sergio Nava. Oggi a Europa 24 andiamo a indagare le priorità degli eurodeputati italiani che siedono alla plenaria di Strasburgo. Ai nostri microfoni Alessia Mosca, eurodeputata PD e gruppo socialisti e democratici, nonché membro della Commissione per il Commercio Internazionale. Cinque anni che si aprono con una grande aspettativa, perché usciamo da una tornata elettorale che certamente ha scosso questo luogo, mai la presenza di forze che sono contro l'Europa era così presente, e quindi questo deve essere, non può che essere un pungolo per fare un passo in avanti notevole. Noi abbiamo la possibilità di cambiare le ricette economiche e contemporaneamente fare in modo che queste istituzioni diventino più capaci di essere efficienti, efficaci, di dare delle risposte in modo rapido. È l'unica, questa della unione tra le riforme istituzionali e le riforme economiche, che può far sì che questa istituzione, questa comunità nella quale crediamo, faccia un passo in avanti. In fondo non c'è niente di diverso rispetto a quello che si sta facendo in Italia, riforme economiche e istituzionali che vanno a braccetto. Nel suo programma elettorale c'era la proposta di un contratto unico, la porterà avanti? Certo, questa è una delle proposte sulle quali mi piacerà continuare a lavorare, e sto già individuando le modalità per farlo. È chiaro che non si può pensare che questo possa essere fatto come nel Parlamento italiano. Il Parlamento europeo non ha diritto di iniziativa legislativa, e quindi noi dobbiamo attenerci e lavorare da un punto di vista normativo su proposte che vengono dalla Commissione. Però è chiaro che come parlamentari abbiamo anche una grande capacità di influenzare e di dare un segnale politico oltre che di dettaglio normativo. Di fatto quello che è successo con l'elezione del Presidente della Commissione e con la scelta di Juncker è stata una forzatura del Parlamento. Non era previsto che ci fossero dei candidati già presentati durante la campagna elettorale ed è stato un inedito assoluto. E il fatto che sia stato scelto Juncker è una vittoria del Parlamento. Il Parlamento ha acquisito centralità in questo, forzando il dettato dei trattati e ottenendo quindi qualcosa che non era mai accaduto in passato. Tornando al contratto unico, se ce lo può brevemente riepilogare questa idea che vuole portare avanti in questa legislatura. Sì, il contratto unico è di fatto la proposta che dà una risposta a tutti quei ragazzi, e sono tantissimi, che in tutta Europa si muovono da un paese all'altro, e che non è pensabile che, essendo parte di una comunità che ha tra le sue basi la libertà di circolazione delle persone, si trovino con delle difficoltà nel avere omogeneità di contratti, omogeneità di contributi, omogeneità di assistenza e di ammortizzatori sociali. Quindi la mia proposta è che si vada nella direzione di un riconoscimento di un contratto unitario che valga per tutti, con le stesse garanzie, con gli stessi contributi da versare, con gli stessi ammortizzatori sociali e con il riconoscimento di una anzianità che si acquisisce pian piano. Lei è uno dei nuovi deputati, circa la metà della delegazione italiana è stata rinnovata. Com'è stato l'impatto con Strasburgo, col Parlamento europeo dall'interno? Insomma, per me questa è una situazione non nuova, e quindi di fatto per me è stato anche un ritorno a casa, e a maggior ragione devo dire che per me questo è stato un momento particolarmente emozionante. Mai entrando in Parlamento italiano ho provato questa emozione, non che non sentissi l'importanza di essere nel Parlamento italiano, ma qui mi sono sentita da un lato parte di qualcosa di più grande, di un sogno che in qualche modo deve essere rifondato, e quindi c'era anche un po' questa aspirazione ideale che penso si sia sentita molto forte, che oggi ho proprio sentito durante, per esempio, quando è stato suonato l'inno alla gioia, l'inno dell'Europa. Ecco, credo che questo sia stato un momento proprio per me molto importante. In più, anche per la mia storia, mi sono ripercorsa gli ultimi 16 anni. La prima volta che io ho messo piede qui è stato 16 anni fa come stagiaire, e quindi insomma per me è stato doppiamente emozionante. Qual è la sua idea di Europa? Cos'è l'Europa oggi? Ma la mia idea, non che cos'è, ma che cosa forse dovrebbe essere, cosa vorrei che fosse, cosa vorrei contribuire a che diventasse. Vorrei che fosse una comunità vera, e come una comunità, come tale, un luogo in cui non si è presenti solo per strappare una piccola concessione o un centimetro da un collega francese o da un collega olandese, non una battaglia costante tra